Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano, buonasera e buonasera anche a Giuliano Cazzola. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Giuliano Cazzola, autore del libro Figli miei, precari immaginari. Giuliano Cazzola, attualmente deputato del Popolo della Libertà, è stato per anni sindacalista e da, possiamo dirlo, della CGIL, ovviamente Cazzola, e da quindi una lunga esperienza sul fronte del mondo del lavoro, ma anche sul fronte politico. Questo libro, che è una prefazione di Maurizio Sacconi, è dedicato a Marco Biagi, del decennale del suo assassinio, ed è appunto un libro che fa il punto sulla realtà del mondo del lavoro, con una particolare attenzione ovviamente ai giovani. Ed è un libro, possiamo dirlo, Giuliano Cazzola, abbastanza amaro. Sì, possiamo dirlo, soprattutto nella conclusione sostengo che oggi siamo fortunati ad essere anziani. Io sono fortunato ad essere anziani perché credo che non sarei mai in condizione di vivere decentemente o serenamente nel mondo che ci attende. E quindi finisco dicendo che quando vedo un giovane che ha l'età di mio figlio gli dico mi dispiace per te che sei giovane. E la conclusione, quindi, senza prendere una conclusione amara, anche se il libro tende un po', cerca, con un titolo anche provocatorio, ma anche con gli argomenti, i dati, le considerazioni svolte, tende anche a demistificare un po' quello che io chiamo la mistica del precariato, perché a mio avviso ci sono molti luoghi comuni, ci sono analisi che vedono solo la parte vuota del bicchiere e soprattutto c'è un tentativo, diciamo, di assolvimento generale dei giovani e una considerazione peraltro che mi porta a dire che il lavoro temporaneo è un figlio di questa economia, che la risposta si dà con ammortizzatori sociali, con tutele, con a sostegno del reddito, che siano il più universalistiche possibili, e qui critico la riforma Fornero perché per mancanza di risorse su questo punto è stata molto debole, e non con la pretesa sostanzialmente di stabilizzare tutti i rapporti di lavoro che l'industria non è in condizione, che l'apparato produttivo non è in condizione di stabilizzare. Ecco, in pratica siamo di fronte a un mondo che è cambiato, un mondo in cui non c'è più il posto, ma c'è soprattutto forse un percorso che i giovani devono affrontare, che però in una prospettiva di crescita può in fondo offrire gli stessi risultati, le stesse possibilità di crescita, le stesse possibilità anche di carriera ai giovani. Però bisogna affrontarlo in un modo nuovo, in un modo diverso, anche da un punto di vista di regole e di comportamenti. E forse questo che è mancato da parte dei protagonisti, da parte della politica, da parte dei sindacati. Beh, soprattutto va detto che in Italia è molto scadente la politica attiva del lavoro. Noi siamo un paese che è riuscito a far fronte a delle situazioni anche drammatiche sul versante delle politiche passive, intendo in cassa integrazione, indennità di mobilità, disoccupazione. Io dimostro, cito uno studio che dice che dal 2007 al 2011, grazie agli ammortizzatori sociali passivi, sono stati salvati 700.000 posti di lavoro. Però, ecco, sul piano delle politiche attive noi siamo veramente scadenti, e sono le politiche attive quelle che possono assicurare non il permanere in un posto magari che è diventato finto, un posto che non è più produttivo, ma il passare da un lavoro ad un altro lavoro attraverso processi formativi e soprattutto attraverso una mobilità virtuosa, una mobilità che trovi nel territorio le risposte. Come peraltro indica la lettera della BCE, la lettera della BCE del 5 agosto, ci invitava ad affrontare quattro temi: la disciplina delle assunzioni, la disciplina dei licenziamenti, gli ammortizzatori sociali e le politiche attive, passando cioè le risorse da settori che ormai non dicono più nulla, ad aziende che ormai non dicono più nulla, a invece aziende e settori che sono invece dinamici e produttivi. Ecco, sotto questo profilo, lo dice anche molto esplicitamente nell'introduzione, la classe politica ha anche un demerito di cercare più il consenso con dei provvedimenti formali che non quello che è effettivamente utile per una società che voglia crescere. Questo è un limite sia della politica italiana sia della politica europea, la ricerca di un consenso che ha portato, dove ha portato, una spesa pubblica in larga parte improduttiva, larga parte generatrice di, appunto, almeno potenzialmente di consenso, ma che ha creato ancora più problemi, e sono i giovani adesso a pagare i problemi che non sono stati risolti non solo sotto il profilo dell'occupazione, ma anche sotto il profilo della gestione della cosa pubblica negli anni passati. Quindi è una critica e anche un'autocritica, Giuliano Cazzola. Beh, certo, è chiaro che io ho avuto delle responsabilità in questi anni, responsabilità non sicuramente primarie, ma sicuramente importanti, e ovviamente non posso estraniarmi da queste responsabilità, anche se, sa, in realtà è molto difficile autoassolversi, perché poi in realtà quando il camion va in una direzione, il tarlo che è sul legno che è caricato sul camion finisce per andare in quella direzione, insomma. Sì, ma non volevo una confessione o un'autoaccusa, indubbiamente. No, ma assolutamente vero. Io poi peraltro penso che la riforma Fornero sul lavoro sia un'occasione perduta, perché in realtà non realizza quel diverso equilibrio fra flessibilità, tra maggiori diritti in entrata e minore rigidità in uscita, e quindi rischia, e ne vediamo già gli effetti nei quei primi segnali che vengono, rischia di creare nelle imprese un clima di incertezza, prima ancora che difficoltà nello stipulare i contratti, un clima di incertezza, perché è cambiato tutto. In una situazione nella quale le aziende hanno davanti a sé un futuro oscuro, una prospettiva incerta, diventa difficile che... cioè hanno sicuramente un momento di pausa, un momento di riflessione prima di assumere qualcuno magari con un rapporto flessibile, la cui divenuta illegittimità, che fino a ieri non c'era, è sanzionata con l'assunzione a tempo indeterminato. Ecco, però questo libro è certamente un'analisi molto accurata dei vari temi, dei vari problemi sul tappeto, delle proposte fatte e, come abbiamo detto, anche che non sono arrivate a compimento, però è anche interessante perché ci sono dei casi personali, e proprio la postfazione di questo libro è scritta, sì, da Arianna Visentini, che è una, sì, quarantenne, in cui in maniera molto, molto diretta, molto esplicita, dice in fondo: io sono precaria ma mi va bene così. E questo forse il messaggio che questo libro voglio dare, ed è anche il titolo in fondo molto esplicito in questo senso: precari immaginari. Allora c'è anche da parte, diciamo, non più della politica, da parte della soggettività delle persone, i giovani stanno prendendo coscienza che possono affrontare con metodi nuovi, con uno spirito nuovo, anche questo mondo del lavoro? Ma guarda, io credo di sì. Noi abbiamo dei dati molto gravi per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, però insomma la maggioranza dei giovani in tutte le classi d'età lavora. E io dico che un lavoro temporaneo non è l'anticamera della disoccupazione, può essere anche l'anticamera della disoccupazione, però in una fase come questa è un lavoro e un reddito. Cioè, molti lavori temporanei, molti rapporti di lavoro flessibili sono serviti, cito dati dal 1997 al 2007, a creare 3,5 milioni di posti di lavoro in più. Quindi insomma, io credo che molti rapporti flessibili siano una risposta alla disoccupazione, al lavoro sommerso. Invece in Italia si guarda più alla precarietà, si promettono spesso stabilità impossibili, e si guarda, si sembra che quello sia un problema più grave della disoccupazione. Comunque, quando si porta i dati della disoccupazione, si portano sempre anche i dati della precarietà, come se le due cose si sommassero. Certo. E invece, secondo me, i dati dei rapporti flessibili andrebbero sommati con l'occupazione. Quindi anche una diversa prospettiva nel guardare al mondo e al mercato del lavoro. Io vorrei concludere questa presentazione, appunto, con Giuliano Cazzola del libro Figli miei precari immaginari, citando la conclusione della prefazione di Maurizio Sacconi, in cui si dice: le teorie hanno fatto già troppi danni. E torna a merito a Giuliano Cazzola con questo saggio di non solo il fatto di mettere ordine nella discussione, ma soprattutto di dire finalmente qualcosa di nuovo e concreto, a cominciare dalla sua osservazione secondo la quale non è possibile superare la disoccupazione giovanile con un intervento tutto incentrato sulla contrattualistica del lavoro. Anzi, irrigidendo la normativa si possono determinare più danni che benefici. Al contrario, conclude Maurizio Sacconi in questa prefazione, la legge avrebbe bisogno di maggiore leggerezza e meno inderogabilità, soprattutto per quanto concerne la cosiddetta flessibilità in uscita e il definitivo superamento dell'articolo 18, proprio per incoraggiare maggiore occupazione giovanile. E qui è appunto la prefazione di Maurizio Sacconi al libro di Giuliano Cazzola, Figli miei precari immaginari. Io ringrazio Giuliano Cazzola di essere stato con noi. Ricordo il libro, edito da Guerini Associati, 204 pagine per €17,50, Figli miei precari immaginari. Grazie e buonasera, Giuliano Cazzola. Grazie, grazie, buonasera. Dopo aver parlato con Giuliano Cazzola di occupazione, soprattutto purtroppo di disoccupazione giovanile, dei temi legati appunto al mercato del lavoro, vi presento un libro che affronta le condizioni di vita dei giovani di ieri e di oggi, un confronto. È un libro che raccoglie una serie di relazioni e una ricerca svolta appunto negli anni scorsi dall'Osservatorio sulle disuguaglianze sociali realizzato dalla Fondazione di Ermanno Gorieri. È un libro curato da Antonio Schizzerotto, Ugo Trivellato e Nicola Sartor per l'editore Il Mulino. Ecco, un libro che raccoglie molti saggi, soprattutto saggi molto concreti, che sono parte appunto di una ricerca approfondita svolta nell'arco di alcuni anni sulla condizione giovanile in Italia, alla ricerca di quelle che sono le tendenze, cercando anche di superare molti stereotipi, molti pregiudizi, ma anche confermando una difficoltà sostanziale del mondo giovanile nell'affrontare il sistema del lavoro in questa fase, in questo particolare momento economico e sociale. Ecco, un libro in cui si dimostra in fondo che stanno aumentando un po' le disuguaglianze tra i giovani e i meno giovani e stanno aumentando le difficoltà di cercare lavoro, soprattutto rispetto a quella che era stata l'esperienza degli anni scorsi. Forse si può citare un fatto significativo che emerge in queste ricerche, il fatto che i giovani d'oggi godono sicuramente di alcuni vantaggi, ma i vantaggi sono quelli accumulati dalle generazioni precedenti. E afferma appunto uno di questi saggi, si tratta della diffusa presenza alle loro spalle di famiglie con consistenti disponibilità monetarie e immobiliari. I genitori contemporanei sono perciò in grado di attutire gli impatti della precarietà materiale cui sono esposti i loro figli. E ciò accade, afferma questo rapporto, non solo finché questi vivono nella famiglia d'origine, ma anche quando sono già andati a vivere per proprio conto. Ecco, quindi i giovani di oggi hanno il vantaggio di poter usare della ricchezza passata, però se guardiamo molto in prospettiva vediamo che questo vuol dire una società che si impoverisce, che in fondo poi per le generazioni future, che è quelle a cui dobbiamo anche guardare, non riesce a dare una produzione di ricchezza tale da poter appunto cercare di soddisfare le diverse esigenze. E ci sono appunto vari fenomeni in cui i fattori ereditari aumentano le condizioni e le possibilità materiali, ma non riescono comunque a affrontare, a risolvere in maniera strutturale quelli che sono i problemi dell'occupazione. E quindi c'è un'immagine dell'Italia come un paese nel quale le capacità e le competenze personali contano meno delle provenienze sociali. E anche nelle analisi sui processi di mobilità sociale intergenerazionale per via occupazionale, cioè il fatto che l'occupazione appunto resta più difficile per i giovani e quindi presenta maggiori difficoltà a tutta la generazione giovanile. Ma sono tante le considerazioni in questo volume, che proprio è un'analisi sui tutti i fattori che compongono la condizione giovanile attuale. Il libro, lo ricordo, si chiama Generazioni disuguali, le condizioni di vita dei giovani di ieri e di oggi, un confronto, a cura di Antonio Schizzerotto, Ugo Trivellato e Nicola Sartor, e edito dal Mulino. Sono quasi 500 pagine per 34 euro. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo. Ringrazio Luca Cremonese in redazione e Carmelo Lauricella in regia.